Noi abbiamo avuto notizia casualmente di questo progetto per la realizzazione appunto di un impianto per il compostaggio di ramaglie e fanghi fognari alla fine di luglio. Ci siamo naturalmente immediatamente attivati con un volantinaggio prima di tutto, perché pensavamo fosse fondamentale che la cittadinanza fosse resa partecipe, comunque sapesse, conoscesse che cosa ci stava per capitare, e poi appunto ci siamo attrezzati per contrastare, per quello che c'è possibile naturalmente, questa cosa. Questo impianto sorgerebbe all'interno del centro abitato di Lama di Reno, dove è vero esiste un'area della ex cartiera Burgo, un'area industriale, però il problema appunto che si trova al centro del paese, con le case, le più vicine sono a 40 metri, e sappiamo tutti molto bene che questi sono impianti che hanno un impatto considerevole sulla popolazione che ci vive accanto, per via dell'odore, del cattivo odore che si sprigiona nella fase di trasformazione dei materiali in compost. Ma non è solo questo, non è solo il problema degli odori, c'è una grossa preoccupazione determinata dal fatto che questi sono impianti che molto facilmente si incendiano per autocombustione, proprio perché nella fase di maturazione di questi materiali c'è calore, ci sono gas e si possono quindi incendiare. Abbiamo un fiume, il fiume Reno, che dista un centinaio di metri da dove dovrebbe sorgere questo impianto, quindi anche da questo punto di vista sono delle criticità. Poi tante altre cose, il fatto che questi sono impianti, tra gli impianti di trattamento dei rifiuti, gli impianti di compostaggio sono quelli che producono la maggiore quantità di polveri. Insomma, pensiamo proprio che questa sia un'iniziativa, un progetto che non possa essere, assolutamente non possa essere compatibile con il luogo dove vogliono realizzarlo. Tengo a precisare che il Comitato non è assolutamente contrario agli impianti di compostaggio, che crediamo sono un modo virtuoso, se vogliamo, di riciclare i rifiuti. Quindi non è un problema di no a prescindere, il problema è che un buon impianto come quello del compostaggio qui sarebbe realizzato nel posto più sbagliato. C'è anche una questione morfologica: Lama di Reno si trova in una valle, insomma, un po' chiusa. Sì, vabbè, certo, noi Lama di Reno e l'area dove dovrebbe sorgere l'impianto è in fondo a una valle chiusa, dove il crinale più basso è a 200 metri sul livello del mare, quindi ovviamente tutto quello che uscirebbe, speriamo di poter usare il condizionale, da quell'impianto rimarrebbe sulla testa della popolazione che vive qui per molto tempo, soprattutto nelle stagioni in cui il fenomeno dell'inversione termica è più importante. Voi avete raccolto oltre 1500 firme e le avete sottoposte sia al comune di Marzabotto che alla regione, giusto? No, non abbiamo ancora fatto questo passaggio, le abbiamo raccolte e le consegneremo al comune di Marzabotto penso la prossima settimana. Abbiamo anche un numero abbastanza elevato di aderenti al comitato, siamo partiti in poche persone, ora sono più di 150, quindi anche da un punto di vista proprio della partecipazione e della sensibilità della popolazione che vive qui, ma non solo, perché ci sono persone che vivono anche a Sasso Marconi, persone che vivono a Marzabotto, a Pian di Venola, che si sono appunto sentite in dovere di darci una mano, di venire a darci una mano e di aderire al comitato. 150 è un numero, mi sembra, importante. Abbiamo anche il totale appoggio di Legambiente, del circolo di Setta Samoggia a Reno, quindi insomma speriamo che in questo modo, con l'aiuto di un po' tutti, si riesca a evitare questa che noi consideriamo essere una sciagura. Avete avuto già qualche interlocuzione però con le istituzioni? Ma sì, abbiamo più e più volte cercato il contatto con la nostra amministrazione comunale, e finalmente il 24 di settembre abbiamo avuto un incontro con loro, durante il quale abbiamo potuto spiegare le nostre ragioni e anche informare i membri del gruppo di maggioranza riguardo alle questioni anche magari tecniche di questi impianti, insomma, perché sicuramente un impianto del genere non sarebbe idoneo in una ubicazione come quella che avrebbe scelto la ditta proponente. Sta per partire adesso una lettera aperta al presidente della regione, a Stefano Bonaccini, nella quale appunto raccontiamo quello che ci sta capitando e chiediamo la collaborazione, l'aiuto, l'impegno, l'appoggio anche del presidente e della regione, affinché vengano attivati tutte le procedure, tutto quello che è necessario fare per contrastare l'insediamento di questo impianto. Quindi in sostanza voi dite sì agli impianti di compostaggio, però insomma non così attaccati alle nostre case. Gli impianti di compostaggio sono una risorsa, assolutamente, sono qualcosa di importante perché, ripeto, ci consentono di riciclare rifiuti, materiali che diversamente andrebbero in discarica, ma ora neppure più in discarica, addirittura andrebbero inceneriti. Ma gli impianti di compostaggio devono essere fatti lontano, il più possibile lontano da centri abitati, perché creano disagi veramente importanti.